la posizione della Lega è unita e compatta ed è quella di lavorare per risolvere i problemi e non per strumentalizzare gli stessi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I media si concentrano prevalentemente in queste ore sul calcio, sulla ripresa o meno dei campionati, ma noi sappiamo benissimo che per quanto al calcio vada attribuito quel giusto valore anche di azienda, in qualche modo economica per i flussi finanziari che produce, ma sappiamo che lo sport assolutamente non è solo il calcio e che il calcio non è assolutamente solo la Serie A. Dall'assemblea di Lega è emersa una unità assolutamente di visione per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti e il calcio. Molte volte si dà un'immagine sempre molto faziosa e di contrasto, che invece è semplicemente un malintendere, un confronto che normalmente si ha fra club. Tutte le federazioni esprimano in che modo possono applicare protocolli sanitari. Venerdì riceverò gli esiti di questo lavoro, oggi incontrerò alle 12 invece tutti i rappresentanti del mondo del calcio e della FIGC. Tutti questi lavori consentiranno di valutare prima del 4 maggio se saremo o meno in grado di riaprire cosa. Dobbiamo riaprire perché lo sport è importante soprattutto non solo come valore economico ma come valore sociale, ma lo dobbiamo fare nel rispetto assoluto della salute di tutti. Buongiorno a tutti, quelli che avete sentito erano il ministro Spadafora e abbiamo sentito anche Fienga di Della Roma. E dunque il vertice è ancora in corso, avevamo appuntamento, tra l'altro lo dico con Francesco, l'ho annunciato prima nel GR, con Francesco Ghirelli che è il commissioner della Lega Pro, però non può, dato che è ancora collegato, credo, con il ministro per capire come sarà e se sarà sta ripresa del calcio. È un piacere ritrovare Ivan Zazzaroni, ciao direttore. Ciao, buongiorno a voi. Oltre ovviamente per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao. Non so se abbia letto oggi il ministro la tua accorata lettera, che io peraltro condivido riga per riga. Ivan, se non l'ha letto gliela mando. Se non l'ha letto. Qualcuno l'ha letta, però sento dire delle robe, ho sentito una serie di cazzate prima. È la mia premessa di ogni giorno questa. Che miseria, quello che dice lo sport non è, no, il calcio non è soltanto la Serie A, sono due mondi diversi. Il calcio, la Serie A è una cosa, il calcio è un'altra cosa e lo sport è un'altra ancora. Ma non capisco questa insistenza nel richiamare ogni volta lo sport di base. È chiaro che tutti abbiamo voglia di andare a correre nel parco, chi dice ha l'abitudine, però non è la stessa cosa. Quella è la ripresa alla Serie B, alla Serie C, alla Serie D, quelle cose. Il calcio di Serie A è una industria che produce profitti e debiti in ugual misura, ma che riesce a veramente a sovvenzionare con il suo 32%, i famosi 400 e passa milioni, tutto il resto dello sport. Chi dice contrario dice una bugia. Poi è chiaro che quando passa il concetto che il calcio di Serie A è un calcio di privilegiati, sì, è vero, è un calcio di privilegiati. 100 persone guadagnano delle cifre iperboliche, ma producono anche posti di lavoro, producono spettacolo, producono trasmissioni, producono diritti televisivi, cioè producono denaro in tasse, giusto? Esatto, un miliardo. Provate a vendere i diritti televisivi della B o della C, che io adoro, e vedrete cosa tirate su. Sono dei percorsi, la B e la C, per arrivare naturalmente alla Serie A. E poi, ripeto, cioè, ne so, c'è una battuta, lo si può dire, ha parlato l'unità di visione è bellissima. Se tu metti divisione attaccato è esattamente quello che è la Lega. Tutto il rispetto, con tutto il rispetto che citava ieri Barbano sempre sul tuo giornale. Sì, no? Sì, non siamo divisi. No. Noi non vogliamo, no. C'è gente che non vuole retrocedere, c'è gente che non vuole pagare gli stipendi, c'è gente che ha fatto un calcolo, parliamo di presidenti, che gli conviene non pagare 4 mesi di stipendi ai calciatori piuttosto che andare avanti. Per cui Io ti dico, è quasi non è uno sfogo, perché ormai sono 2 mesi che la miniamo con questa cosa. Ti dico semplicemente una cosa: chi pensa di chiudere il calcio oggi è un grandissimo ottimista. Ah, questo poi me la spieghi, Pierluigi. Te la spiego subito. Dai, quando ha fatto ha parlato Pierluigi, da Lubio, dai. Perché vuol dire che pensa che fra 2 mesi, 3 mesi tutto sarà finito. Ah, perché in quel senso lì. Ah, cioè, sì, noi dobbiamo imparare a convivere col virus fino a quando non trovo un benedetto vaccino, sì, o la benedetta cura. Cioè, ci parlano di mascherine. Io non voglio arrivare gli igloo da mettere sulle spiagge, perché siamo in provocazione. Quello che ci arriva dappertutto, da immunologi, virologi che vanno in televisione, se fosse Biscardi li porterebbe sicuramente al processo del lunedì. Sì, uno contro l'altro. Bravo, esatto. Non abbiamo certezze, Pier. Cioè, siamo di fronte a una situazione in cui nessuno sa dirci cosa potrà accadere. Per cui, Guarda che ti sento più. Guarda, io riparto. Ti ho rubato il telefono? Quello che usavi prima. Adesso ti sento. Ripristiniamo. Io riparto da uno dei classici della filosofia di Arrigo Sacchi, che come sai è uno dei miei punti di riferimento esistenziali, che dice che bisogna sempre circondarsi di ottimisti, sì, nella vita. È esattamente questo il caso. Cioè, è ovvio che tutto quello che si sta facendo in questo momento potrebbe essere uno sforzo inutile, ma va fatto. Ma così, chiaro, come è stato uno sforzo inutile, io mi ricordo quando mi arrivò tutto il calendario in quei primi giorni di marzo, tutto il calendario rifatto dopo un accordo, ti ricordi, con la Lega, con Gravina, eccetera, che aveva fatto il pontiere, il Kofi Annan della situazione. Alla fine si erano tutti messi d'accordo e c'era tutto il calendario con tutte le partite da inizio marzo, con tutti i recuperi, cioè, poi dopo è diventato carta straccia, no? Esatto. con l'infuriare del virus, però va fatto. No, ma va fatto con ottimismo, anche con coraggio, secondo me. Con ottimismo, con coraggio, con realismo, cioè sapendo che potremmo fare una pallottola di carta, ovviamente, di quella roba lì, a pallottolarlo, ma lasciamo perdere pallottole, sopra pensare altre cose, a pallottolare quei fogli di carta con tutti questi impegni, però bisogna assolutamente provarci, e poi ti dico, qualche segnale a leggere, a capire, qualche segnale incoraggiante arriva. Ma io sicuro, stamattina sentivo uno dei medici della Liguarda che racconta di un virus, di gente che arriva adesso, purtroppo ancora molta, ma in condizioni molto migliori di prima, quindi è anche possibile che il virus possa concederci una tregua e anche sparire, come era successo con la SARS. Può essere questo, può essere il contrario. Nel dubbio che facciamo? Ci fermiamo qui, però io credo che comunque, allora, ieri dall'assemblea di Lega è uscita una parola che in quella sede è un totale neologismo, no? Cioè unanimità sulla ripresa del campionato. No, è una cosa mai vista. Ho l'impressione unanimità nella ripresa. Direttore, avrà forse influito quella lettera di Sky arrivata 40 minuti prima della... Non c'è Ivan? Adesso lo ripeschiamo, non risponde. Te lo dico io, ha influito sì, ma non... Quella lettera di Sky è arrivata 40 minuti prima. Nello specifico Sky, anche se Sky ovviamente è uno stakeholder particolarmente pesante, ovviamente, perché sappiamo, e questa se vuoi è anche una struttura del mondo del calcio italiano, qualcosa che andrebbe migliorata nel tempo, che c'è una sorta di dipendenza dei diritti televisivi delle società di calcio, superiore per esempio a quello che succede in Inghilterra, e bisognerebbe sviluppare altri introiti con lo stadio, con il merchandising, eccetera, eccetera, eccetera. Però non c'è dubbio che comunque i diritti televisivi pesino in Italia, in Inghilterra, ovunque nel mondo. Le TV hanno un ruolo che è un ruolo importante, perché le TV sono il principale luogo di fruizione in termini anche proprio numerici del prodotto calcio. Nel senso che magari tu hai 40.000 persone che vedono una partita allo stadio e ne hai 800.000 o 1.500.000 che li guardano in televisione. Sì. Quindi voglio dire, è la cosa più normale del mondo, è un fatto proprio banalmente numerico, non c'è un giudizio di valore, non è giusto o sbagliato, è così. No, ma a parte il fatto che rimane il discorso che facevamo l'altro giorno, cioè la prima partita che ci sarà dopo la ripresa, chissà quando, speriamo presto, avrà lo stesso impatto emotivo e mediatico e anche di importanza, voglio dire, per chi lo segue, dello sbarco sulla Luna per mille motivi. Quindi... Io questo non lo so, c'è anche chi pensa che bisogna vedere come ci si arriva, bisogna vedere in che clima ci si arriva. Secondo me non sbaglia chi dice che finché ci sono 500 morti al giorno in Italia è quasi irrispettoso giocare a pallone. Questo secondo me è un discorso che ha anche una sua validità, una sua logica, che quantomeno è giusto ascoltare. Poi però mi auguro che da qui a qualche giorno, a qualche settimana, questi numeri terribili cambino, e comunque insomma ci hanno detto che il virus, così come viene, poi se ne va, poi magari torna, ma nel frattempo potrebbe andarsene, quindi se è una cosa che potrebbe andarsene o comunque che potremmo gestire con più serenità, dobbiamo far ripartire la vita, ma vale per tutto, vale per il lavoro, vale per la scuola, che chiaramente ripartirà a settembre, va benissimo, non entro nel merito, vale proprio per il corso delle cose, per il flusso delle cose, non si può pensare di dire che sospendiamo la vita in eterno, perché non va così, non e all'interno così. Della vita ci sta anche l'attività sportiva di base e professionistica, che sono due cose profondamente diverse, ripeto, continuo a non capire questa tendenza a metterli insieme quasi per giustificare l'una con l'altra. Sono due aspetti, due piani profondamente diversi. Invito anche gli ascoltatori. Scusa, parlo su questo tema, perché allora i due elementi sono assolutamente assimilabili dal punto di vista del contagio, no? Nel senso che così come è possibile infettarsi in una mischia in area di rigore in una partita di Serie A, può succedere in una partita di promozione o delle giovanili. Quindi dal punto di vista, diciamo, medico, delle precauzioni, di tutti i presidi che devono essere adottati, eccetera, questo è indiscutibile. Dal punto di vista del movimento complessivo, del movimento anche economico, cioè non bisogna vergognarsi di questa parola, perché non è il male del mondo, l'economia, se vissuta in una maniera sociale, se vissuta in una maniera tranquilla e serena. Per la cronaca, ti lascio subito la parola. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, e torno al discorso che faceva Ivan prima, sono due mondi diversi. Conto è lo sport professionistico che smuove interessi economici clamorosi e interessi anche proprio culturali di numeri di persone clamorosi, e un conto è la pratica sportiva che ha assoluto valore e nobiltà, ma che ovviamente è un'altra cosa. Ma hai visto che sto vedendo Cassano, tuo amico? I capelli Cosetti, no, su Sky, in video chat, che sta dicendo Cassano ormai è ovunque, ha trovato un nuovo ovunque. Sono il più grande talento buttato via, oltre passato mi sembra che non però rasato a zero con una pettinatura come la mia non avevo ancora visto, Ce ne sono anche altri, poteva fare di più della carriera e della vita, su questo non c'è dubbio, però poi delle volte lui insomma esagera pure in questa sua rappresentazione. Vabbè, comunque qualcosa ha fatto, non è che 150 gol in carriera ha fatto. Certamente ci ha fatto divertire un casino e continua a farci divertire un casino. Allora, dato che devo lanciare un break, lo faccio immediatamente, così poi riprendo il discorso con Ivan Zazzaroni. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Volevo sentire l'opinione di Ivan Zazzaroni sul discorso che abbiamo fatto nel periodo non collegato con te, cioè che è questo, l'unanimità è uscita dalla Lega unicum assoluto, credo, dicevo prima a Pierluigi, che abbia influito la lettera arrivata da Sky 40 minuti prima dell'inizio della riunione su questa unanimità, perché magari qualcuno pensava ancora di poter ciurlare nel manico, cioè non gioco ma mi paghi perché il contratto è blindato. E anche lo scenario internazionale, perché non dimentichi nemmeno questo elemento nella tua lettera, Ivan, perché è vero che tutti i problemi eccetera eccetera, chissà come si comporta e poi ritorna e poi non ritorna, però intanto non è questione solo del movimento italiano, dobbiamo raccordarci con il resto del mondo, e mi sembra che in Germania ieri dicevo i tedeschi marciano compatti, mi faceva un po' impressione dirlo, ma io sono d'accordo con loro in questo marciare compatti. Infatti loro fanno un sistema molto più di noi. Tu ricordi anche nel 2006 cosa fecero per ripartire da un mondiale perso in casa, e hanno costruito successi. Ma a parte questo, è vero, è così. Cioè la lettera di Sky è stata fondamentale, perché giustamente, lo ripeto, Sky non vuol pagare. Giustamente. Perché dovrebbe? Perché non vuol pagare gli stessi presidenti che non vogliono pagare i giocatori. Cioè, capisci dov'è il problema? Cioè, i presidenti non vogliono pagare i giocatori per 4 mesi perché non giocano, però la TV dovrebbe pagare 4 mesi senza prodotto hai capito? Perché loro hanno bisogno di pagare gli stipendi o di pagare gli impiegati, non mi sembra una cosa particolarmente corretta. E poi a parte questo, voglio dire, cioè, si riparte, io dico lasciateli provare, cioè il mondo del calcio deve almeno provare a ripartire, poi si scopre che non è possibile, si scopre che bisogna aspettare 8 mesi, 15 mesi, 20 mesi, un giorno, quello è un altro tipo di discorso, ma a prescindere, proprio a priori dire no, perché i privilegiati, perché allora l'altro sport, perché gli sport individuali, certo gli sport individuali se devono allenare hanno tutto il diritto di allenarsi come tutti. Qui stiamo parlando di un sistema Serie A che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Oltretutto è un sistema che non può morire, perché se finisce anche... L'altro giorno avevamo scritto, se finisce il calcio andiamo tutti a casa. Ragazzi. Come ti rapporti con il sentimento popolare, che forse demagogia collettiva secondo cui pensa... che hanno anche gli stessi rappresentanti del governo e altre istituzioni, perché è così, perché non possono dirmi come si fa a pensare di giocare in questa condizione. Che problema? Perché questo non onorano i morti? Cioè il fatto che il calcio non onora i morti si gioca? È allucinante. Cosa cambia? Io voglio che ragazzi, i morti posso dire lasciamoli perdere da una parte e dall'altra. Nel senso che purtroppo i morti saranno quelli indipendentemente, quindi non usiamo questo argomento, devo dire, da tutte e due le parti, cioè anche dall'altra, nel senso che poi alla fine anche qualcuno ha provato a dire per rispetto dei morti bisogna giocare. Non è per rispetto dei morti bisogna giocare. Né che bisogna star fermi. Bisognerà giocare ovviamente con le precauzioni, con le protezioni, ma soprattutto bisogna provarci, perché se non ci provi non stai facendo il tuo lavoro, cioè stai accettando la condizione che vivi un anno o due o a questo punto non so quanto dentro un eremo e francamente non è giusto, non è l'atteggiamento secondo me che nessun altro paese avrà. Provano a ripartire. Pierre, è proprio la mancanza di una certezza, ti ripeto, se ci dicessero veramente arriva, non so, l'immunologo del secolo e ci dice fra un mese e mezzo non c'è più il virus, state tutti in casa, legatevi alle sedie allora forse lo faremo tutti. Visto che qui ci stanno dicendo che non nessuno sa esattamente, uno 18, l'altro 12, l'altro 5, l'altro 14. Cioè la realtà è che noi stiamo convivendo da due mesi, con forse da più di due mesi, con un nemico invisibile che ci sta condizionando la vita. Oltretutto, se prendesse il calcio, cosa che mi auguro fortemente, sarei sempre il primo. Vorrei veramente, gli faccio un articolo, una pagina, quello che dice non è regolare. Perché c'è qualcosa di irregolare nella nostra vita oggi? È regolare che sia a casa da un mese e mezzo, che la gente non trovi il lavoro, che i bar siano chiusi, che i ristoranti siano chiusi, che gli alberghi siano chiusi, che non si possa andare da nessuna parte? Cioè è regolare. Io dico semplicemente questo. Hai detto giustamente, Pier, i morti lasciamoli in pace, perché quelli li piangono chi li ha avuti, gli amici e tutto il resto, oltretutto non hanno avuto nemmeno la possibilità di celebrare il funerale, che è ancora una roba paradossale. Pensiamo ai vivi, pensiamo a quelli che fra due o tre mesi sono morti e camminano, non hanno lavoro perché non hanno speranza, perché hanno solo le tasse da pagare, hanno soltanto dei conti da pagare, gli affitti da pagare e non hanno un lavoro. Quello, io penso a quello, devo pensare per forza a quello, chi ha dei figli, deve pensare a quello, cioè cosa gli lasci? Poi è chiaro che la disperazione di città intere, di un paese che ha perso 25.000 persone, cioè, è una roba terrificante, è evidente, una guerra veramente. È evidente, questo è evidente, ma deve essere, cioè, è la premessa che deve essere sottintesa, però non possiamo cominciare sempre con questa premessa per giustificare una posizione o quell'altra, almeno per come la sento io. Poi no, è chiaro che il rapporto comunque ripresa, calcio, televisioni, soldi, futuro sia un argomento stringente, e d'altra parte c'è anche quell'altra componente che non possiamo certo dimenticare, perché io sto ricevendo un milione di messaggi via WhatsApp che sono di questo tipo: non sono abbonato a Sky, ma Sky non paghi i diritti alle squadre ma restituisci i soldi agli abbonati? Domanda Alessandro. Oppure Sky non vuole pagare i presidenti che non vogliono, ragazzi, perché poi non puoi pensare il rapporto presidenti calciatori, il rapporto presidenti fornitori, ovviamente Sky e DAZN sono fornitori privilegiati, importanti, che pesano tantissimo, il rapporto che Sky e DAZN hanno con i propri clienti, sì, è tutto un meccanismo, sì, a catena. Io ho detto, Sky, ma volevo dire anche da zone, cioè non è, ho detto sì, Sky, no, per, no, ma figo, certo, ma sì, Sky ha 5.000 dipendenti a casa, ma non c'è, beh, ma non c'è dubbio, ma non di cosa stiamo parlando? Lunga vita, 5.000 persone e al sistema, a tutto il sistema, e ripeto, la parola compromesso, che è un'altra parola che spesso viene utilizzata in termini negativi, in realtà è la strada. Cioè, bisogna che i giocatori incontrino i presidenti e che ognuno rinunci a un pezzetto. Bisogna che i presidenti incontrino le televisioni e che ognuno rinunci a un pezzetto, e che le televisioni incontrino gli abbonati, per così dire, ognuno rinuncia a un pezzetto. Cioè, non c'è molta strada, molta alternativa rispetto a tutto questo. È chiaro che il presupposto di partenza, è la cosa che potrebbe sbloccare la situazione e facilitarla, è recuperare un minimo di normalità. Una partita a porte chiuse fa schifo, sì, una partita a porte chiuse. Sai cosa mi avvilisce? Il pensiero che nonostante una non partita, no? Sì, sì. Stavo dicendo, quello che mi disturba e mi avvilisce particolarmente, che nonostante tutto quello che sta accadendo, che è una cosa fuori dal mondo, perché nessuno di noi ha mai avuto la percezione di una cosa del genere, la gente a certi livelli non cambi. Cioè, io penso che quando ci troveremo dopo questa pandemia, avremo sempre le stesse persone che diranno le stesse, penseranno soltanto a loro stessi. La solidarietà è della gente normale, questi invece pensano unicamente ai loro interessi, che è una roba terrificante, cioè drammatica. Mi ricordo che dicevano settimane fa qualcuno, cambieremo, saremo diversi, non credo. Poi c'è anche quell'altro macro discorso, anche in questo caso in buona parte strumentale, che è quello relativo ai controlli che devono essere eseguiti sui calciatori per riprendere l'attività, eccetera eccetera. Anche qui leggo, cito di nuovo il tuo giornale su questo quadro della situazione tedesca, che rimane grosso modo il mio punto di riferimento, anzi non grosso modo, rimane il mio punto di riferimento. La Lega ieri ha ribadito di non chiedere, Lega tedesca, Bundesliga, sì, di non chiedere privilegi, e precisato che i circa 20.000 test previsti per la fase finale del campionato, 81 partite, corrispondono ad appena lo 0,5% del fabbisogno nazionale, stimato in 550.000 test settimanali. Giocatori e staff verrebbero controllati ogni 3 giorni, perché questo è un altro grande tema. Ma vedi, il problema è questo, penso davvero, anche scritto loro, invece di litigare, ho perso tempo, ho usato il tempo per trovare dei protocolli e per trovare una unità di intenti. E fa così in un paese civile, cioè invece di litigare, non pago questo, non pago quell'altro, pagare questo, no, non voglio giocare, si voglio giocare, oddio mi licenziano, oddio arriva il cinese che mi licenzia, oddio corso giù, vado in B, hai capito? Cioè loro cosa hanno fatto? Tutti insieme hanno chiesto a un protocollo sanitario che può essere sicuramente perfettibile, ma che gli garantisce, poi ti ripeto, trovano un fattore sicuro, tu hai visto. Aspetta, Ivan, spostati che vai e vieni, mi sembri. Dico, tu hai visto un calciatore. Mi senti? Sì, ti sento. Ecco, dicevo, tu hai visto qualche calciatore di Serie A finito all'ospedale, grazie a Dio, no? Quindi sono ragazzi giovani, sono ragazzi comunque tutelati. Cioè, io credo sinceramente qualcuno è stato male, indubbiamente, però bisogna affrontare la realtà per quella che è, cioè provare a convivere col virus fino a quando lui non sparisce. Non c'è niente da fare, non abbiamo alternative. L'alternativa, l'ha detto anche l'altro giorno Bassetti, io lo ripeto, non si lotta da fermi. No, arrivano dalla luna le immagini intanto di Ibrahimovic che si allena con l'Hammarby. È vero, la Svezia ha scelto un approccio diverso, non stiamo a entrare in queste questioni, hanno fatto bene, hanno fatto male, non lo so, però anche quelle sono immagini che sembrano arrivare da un altro pianeta. Ma io poi, scusa, qui non entro in politica, entro nel sociale. Io oggi ho sentito Fontana dire rifarei tutto. Io prego soltanto che Fontana dica mi sono sbagliato, cioè di fronte a tanti morti non si dice rifarei tutto, no. Si dice ho tentato di fare il possibile. Sì, non si dice anche come ha fatto Macron, chiedo scusa, iniziando il suo discorso chiedo scusa per le cazzate che ho fatto fin qui. Questo è un approccio di posso dire. Puoi dire no, ma non mi puoi pare, dire rifarei tutto di fronte a una realtà terrificante. Io vivo, sono a Monza, una realtà terrificante come quella della Lombardia. Dici guarda, abbiamo tentato in tutte le modi di fare le cose migliori possibili per la gente, probabilmente in alcuni casi non siamo riusciti, avrei voluto fare meglio, si dice così, non rifarei tutto. Sentiamo Giancarlo da Milano, un paio di ascoltatori e poi ti saluto, Ivan. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Stavo andando un po' oltre e torno un attimo alla discussione iniziale, quello che riguarda l'eventuale rinizio del campionato. La mia considerazione è questa, da tifoso, tra l'altro anche un po' di ironia, anche il fantacalcio saltato, quindi insomma tutte le cose che pago Sky tranquillamente, Sport e Calcio, anche se non lo vedo, non è un problema quei 10 euro in più al mese in questo momento, perché ci sono persone che hanno molto problemi più gravi, come del resto immagino che, non voglio fare demagogia, ma immagino che solamente una parte piccola degli stipendi dei calciatori di Serie A basterebbero, come dire, a pagare i vari magazzinieri e tutte le persone che gli stanno intorno. Ma non è quello che volevo dire, il mio ragionamento era un po' più ampio, nel senso, io sono d'accordo con voi che deve ripartire, fa parte del PIL, anche dal punto di vista emotivo per noi italiani sarebbe tutto fantastico, anche un proseguimento a porte chiuse in brevi tempi va bene, però mi guardo intorno, quindi guardo quelli che hanno gli stessi nostri problemi, la Spagna, la Francia, la Germania e il campionato inglese. A parte il campionato tedesco e i tedeschi in genere che hanno affrontato questo problema, lo sappiamo meglio benissimo tutti, in una maniera da tedeschi, e quindi evidentemente erano più preparati di noi, francesi e spagnoli, e stanno gestendo bene. Ma Spagna, Francia e Inghilterra sono nella stessa nostra situazione, nel senso, va bene provare, ma non è che si può dire va bene, proviamo con il calcio, intanto lasciamo chiusa la scuola, lasciamo chiusa quell'attività, tutto si può provare, ma non è una questione di provare. In Francia le scuole le aprono, altrove le scuole le aprono, riprovano non solo il calcio. Sono pienamente d'accordo con la Francia, io si parte prima dalle scuole, però detto questo, le ripeto, ma si parte dove si può partire con tutte le attività. Ma nessuno ha detto deve partire il calcio e non la vita, che cose sono? Ma certo, cioè, partono le fabbriche, ma certo, non è appunto una scelta che facciamo partire il calcio alle scuole. Sulle scuole credo che ci siano altre dinamiche, altri discorsi legati al contagio, legati anche, da quello che ho capito, al fatto che i bambini sono fortunatamente asintomatici, da quello che ho capito prevalentemente almeno asintomatici, quindi potrebbero diventare dei portatori del virus, ma come ripeto non entro in discorsi di natura scientifica. Io credo che l'approccio sia, cioè il tema è strettamente filosofico, ed è se vogliamo stabilire che ci arrendiamo oppure se proviamo a disegnare degli scenari. No, ecco, e questi scenari vanno disegnati, anche perché, come dicono stimati virologi, la situazione cambia di un mese, cambia di settimana in settimana. Certo, quindi certo. No, ma bisogna, è così, però, è così. Però, cioè, per rispondere a Giancarlo, ha toccato un tema, cioè noi in questo momento stiamo facendo tutti i convocati, il nostro specifico è calcio e sport. È evidente che noi assolutamente nessuno di noi ha mai pensato di escludere il resto della vita, cioè in questo momento stiamo parlando di calcio. Certo. È chiaro che vuol dire ripartire insieme se ripartono le fabbriche, se ripartono cose essenziali. Non è che il calcio sia essenziale, assolutamente, ma è importante perché produce spettacolo, produce, è un antidepressivo. Io non voglio fare una questione soltanto economica, è una cosa che serve, parlo di Serie A, anche per trascorrere un po' di tempo, per distrarci un secondo, per comunque tenere in vita un qualcosa che fa parte della nostra esistenza, cioè della passione, ma non è questo e l'altro no. È il superfluo necessario, Ivan, è il superfluo necessario. Intanto dico una notizia di adesso: Sky per gli abbonati ai pacchetti calcio e sport ha dato la possibilità di ottenere uno sconto su abbonamento in questi mesi senza calcio. Ve la giro così, soprattutto agli ascoltatori, come mi arriva. Grazie Ivan, a presto. Ciao. Ciao. Pronto? Ciao. Sì. Volevo soltanto dire una cosa, che noi venerdì, a proposito del visto che siamo come unità in divisione, regaliamo 100.000 bandiere. Vediamo se il significato, dateglielo voi, non è soltanto per il 25 aprile, ma perché è un tentativo per dire, guarda, sono 100.000 bandiere, prova a guardarla un attimo e ricordi chi sei. Bravo Ivan, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Allora ci fermiamo, chiedo scusa per il ritardo alla borsa, che adesso sentiamo, e poi diamo un'occhiata ad un mondo che in questi giorni abbiamo guardato un po' dal buco della serratura. Ciao, capisco la fretta di riaprire i campionati di calcio, ma non si rischia, in caso di ricaduta del virus, di spendere molto di più anziché aspettare magari giocare agosto, settembre, come aveva proposto Galliani? Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. 800 24 0024. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Tutti convocati. Mario, come tu ti stai allenando? Io sì, faccio molte addominali, pressioni, queste cose qua. Faccio cardio, lo faccio giù in garage o le faccio le scale. No, però ti dico, io cardio, vabbè, lo sai, io lo odio. Faccio una o massimo due volte a settimana. Sono ingrassato troppo. Quanto stai? 100? 106. 106 e 5. 106? Ma è dura, oh, mangio. Neanche... Mamma mia, troppo così, oh. Lo so. No, brioche, patatine, ma delle robe. Sai cos'è che non giccio il parco a 100 metri, non vado a correre perché non si può. Beh, diciamo che c'hai la scusa. Però te lo muovi, ma è dentro casa, dai. Sì, ma è d'ora, questi giorni comincia a fare qualcosa sul terrazzo, dai. Un po' di esercizio, qualcosa. Non te buttare sotto perché... Questi erano Vieri e Totti, li avrete riconosciuti, quello di prima, Balotelli che odia il cardio. Beh, tutto questo per introdurre Pierluigi, un nuovo amico che saluto, mi fa molto piacere sentirlo, ed è Vito Scavo che è amministratore delegato di McFit Italia e di RSG Group, cioè la più grande multinazionale di fitness europea. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, tanto per riepilogare rapidamente la sua storia, nato in Italia, a Bari, ma si è trasferito in Germania da bambino e è diventato un campione a livello europeo di arti marziali. Dimentico qualcosa? No, tutto giusto, anzi magari colgo l'occasione per dire che il mio italiano non è il più perfetto, quindi mi scuso sin da adesso già per gli errori che farò. No, non preoccuparti, abbiamo... è comunque meglio del nostro. Vito, guardando fuori dalla finestra, situazione dello sport in Germania, ne parliamo sotto vari aspetti in questo momento, ma la situazione, una fotografia dello sport tedesco in questo momento qual è? Dello sport, più direi del... Posso spiegare più o meno del fitness, diciamo, nel nostro settore. Ecco qui, diciamo che io ho la fortuna di avere una visione un pochino più internazionale, perché siamo con il nostro business, siamo su 12 nazioni. Quindi in questo momento noi abbiamo purtroppo 300 centri chiusi, 4.000 dipendenti a casa in cassa integrazione, sono 2 milioni di abbonati che purtroppo non possono allenarsi. Quindi questa è la situazione. Se parlo del fitness, direi che è veramente in forte crisi in questo momento. Quindi il governo ci sta dicendo di stare a casa, ma ci dice comunque di allenarsi da casa, perché il movimento è fondamentale per il benessere mentale e per il fisico, logicamente. Quindi questo lo facciamo anche, dunque. Sì, il futuro invece, so che la domanda è larga e quasi di sistema, ma come lo immagini nel tuo settore? Io prima del futuro ci vorrà comunque questa fase 2, che ci auguriamo che avvenga il prima possibile. Chiaramente ogni mese di ritardo delle aperture implica che molte palestre non possono neanche più riaprire, questo è veramente tragico. Quindi ricordiamo comunque che in Italia il mercato del fitness ha un grande valore, un valore di 10 miliardi di euro, 6 milioni di persone si allenano in palestra, quindi noi adesso in questo momento, il bello, diciamo, la cosa positiva è che molti imprenditori italiani del fitness sono uniti e proprio in questo momento stiamo lavorando per creare un concetto a 360 gradi per fare in modo che sia i nostri abbonati, anche i nostri dipendenti, si possano uno allenare ma anche lavorare in sicurezza. Sì. È quello che stiamo facendo adesso. Questo, Pierluigi, mette insieme varie tematiche, no? Che sono di profondissima attualità. Sì, perché sappiamo che, insomma, il movimento è fondamentale per la vita delle persone, insomma, che esiste anche una componente della quale si è parlato poco, onestamente, se ne è parlato vagamente per quanto riguarda i bambini, però secondo me è importante, della della parte psicologica del coronavirus, nel senso che va bene la quarantena, va bene affacciarsi, cantare l'inno, sono tutte cose fantastiche, però poi esiste anche una ripercussione sul modo di pensare delle persone, soprattutto su chi abita negli spazi stretti. L'abbiamo detto, da questo punto di vista la quarantena non è democratica, il virus è democratico perché colpisce pure i capi di Stato e i reali d'Inghilterra, ma la quarantena dipende molto da dove stai, che casa hai, se ti puoi muovere, se puoi fare la corsa in giardino o almeno fare una boccata d'aria in terrazza oppure no. La domanda è sul futuro, cioè se c'è un piano B, nel senso che comunque, anche se ci auguriamo che questo virus possa sparire a breve, insomma, come azienda state lavorando su degli scenari, su una possibile riconversione del vostro concept? Allora, io credo che il futuro, se guardiamo proprio molto avanti, spero proprio che torniamo di nuovo nella normalità, perché non credo che alla fine abbiamo finito qui e quindi ne si andrà mai più in palestra. Ecco, questo non lo credo. Quello che stiamo facendo ad oggi e che avevamo già comunque nel nostro modello di business è la visione della digitalizzazione. Noi stiamo seguendo già da molti anni l'idea di dare un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, quindi di dare la possibilità, la nostra missione è di dare delle possibilità ai nostri clienti, ai nostri abbonati di allenarsi in qualunque luogo, in qualunque momento tramite la nostra app Saberobics, che a questo momento abbiamo dato sia dal primo minuto della quarantena, abbiamo dato a tutti gli italiani gratuitamente. Ecco. Quindi credo che in futuro ci sarà sia l'allenamento in palestra, ma soprattutto anche il supporto con delle app o delle cose da casa. Ecco, ma questo può avere, quanto futuro può avere? Cioè, mettiamo in condizioni di ritorno alla normalità, Vito, ritieni che questo modo di allenarsi, che adesso è molto diffuso, no? dagli sportivi professionisti ai dilettanti che normalmente andavano a correre nel parco, può diventare un nuovo modo di vivere lo sport? Secondo me non sarà una sostituzione, questo in nessun caso, ma sicuramente è un supporto. Allora, dal mio punto di vista, ad oggi credo che in Italia sono più o meno un 10-11% della popolazione che si allena in palestra, quindi questo può aiutare a far sì che più persone si avvicinano al mondo dello sport, della palestra, quindi può dare un supporto molto importante, ma non è in ogni caso non è una sostituzione. E posso chiedere una mappa delle aperture e riaperture in giro per l'Europa, perché immagino che il nostro ospite abbia un quadro un pochino più chiaro del nostro. Sappiamo che il virus ha avuto un andamento diverso da paese a paese, noi siamo stati i primi ad averlo, i primi a chiudere e credo che non saremo i primi a riaprire, purtroppo. Com'è la situazione per esempio in Germania e negli altri paesi? Ecco, sì, allora è vero che siamo stati purtroppo i primi a chiudere, se non mi sbaglio, il 23 febbraio, il 24 febbraio abbiamo chiuso le prime palestre in Italia, più o meno. Sì. Ecco. Immaginiamo che è un stanno incredibile, una difficoltà immaginabile sia per gli abbonati che anche per i clienti, comunque, che anche per le palestre. Comunque, poi pian piano, naturalmente, hanno chiuso anche tutte le altre nazioni, quindi la situazione è quasi in tutto il mondo la stessa. In questo momento però, la Germania per esempio, anche come primi a Amburgo, stanno già parlando delle riaperture. Dal mio punto di vista credo che maggio ci saranno le prime aperture, anzi già oggi i piccoli centri fitness a 200 metri quadri hanno già avuto il consenso per aprire in Germania. In Cecoslovacchia per esempio il 15 di maggio si riaprirà di nuovo normalmente, naturalmente tenendo conto delle mascherine, delle allontananze l'uno dall'altro, eccetera, eccetera, si potrà riaprire normalmente il centro fisico. In Spagna? In Spagna si parla, ma secondo me sarà la stessa situazione come in Italia, anche in questo momento sono tutti chiusi. Quindi come anche in Francia. Francia, Spagna e Italia più o meno sulla stessa barca, altrove invece ci sono tempi un po' più rapidi, è così? Sì, più o meno sì. Perfetto, grazie mille, grazie davvero. Torniamo Ciao. A sentirci, grazie Vito, grazie davvero. Pier, saluto anche te, perché dopo il traffico parlerò di una notizia che mi ha dato ieri sera, anzi quasi nella notte, Cruciani, che arriva dagli Stati Uniti. Siete tutti convocati anche sui social. scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Convocati. Work it, make it, do it, makes us all better, faster, stronger. Dunque, della mia serata importa naturalmente, come giusto, a nessuno, però vi faccio la cronaca. Ieri sera avevo appena finito di guardare The Last Dance, primo episodio, documentario su Michael Jordan, che sto centellinando, e mi ha mandato un messaggio mio amico Giuseppe Cruciani, cui non ho mai voluto così bene, dandomi una notizia che arriva dagli Stati Uniti, che non riguarda, thanks God, il coronavirus, ma riguarda la reunion di una delle coppie più belle, più famose dello sport americano, cioè Mr. Tom Brady, che è passato da, come sapete, da New England Patriots a Tampa Bay facendo un sacco di rumore. Poi parliamo anche delle corse nel parco vietate, se volete, ma non è necessario, con il suo alter ego Batman e Robin, e cioè Rob Gronkowski, che aveva smesso di giocare un anno fa e che è stato riattivato. Sono ho dormito bene dopo questa notizia. Ciao Massimo Riani. Ciao, buongiorno a tutti. Non ti chiedo la cronaca della tua serata, però la notizia è arrivata nella serata italiana, magari tu la sapevi prima perché sei informatissimo. Michael Jordan e Scottie Pippen che si ritrovano insieme, nell'ultima tappa della carriera di Michael, facciamo a Washington, in una squadra, cioè, di basso livello, però bellissima. È meravigliosa, devo dire che anche da tifoso dei Patriots l'ho accolta con grande piacere, perché la sola idea da tifoso di football, prima ancora, di poter rivedere in campo un talento straordinario come Gronkowski, assieme, come hai detto tu, al suo Batman, cioè a Tom Brady, non può che rendere felice chiunque ami questo sport. Sì, dal punto di vista dell'immagine in questi giorni tremendi, però è veramente come se Michael Jordan, Brady e Gronkowski, Pippen o Batman e Robin si fossero ritrovati da un'altra parte rispetto a quelle 8 stagioni insieme dal 2010 al 2018 e soprattutto 3 Super Bowl vinti insieme. Assolutamente, la cosa fa un effetto stranissimo, l'idea di vederli giocare con una maglia che non sia quella dei Patriots, perché siamo stati abituati per tutta la loro carriera, però è veramente un effetto strano, chiaramente nella speranza di vederli, che tutto proceda, che si possa giocare, ma rimanendo proprio strettamente al football, Tampa però non è quella Washington. Tampa quest'anno, anche soprattutto per gli innesti di Brady e di Gronk, può dire la sua. Guardavo gli ESPN Sports Center questa mattina, loro notiziario sportivo, che poverini anche loro arrancano per trovare notizie, quando gli arriva la notizia si campano per una settimana, al di là che domani c'è il draft, per cui lo aspettiamo noi tifosi di football, credo, come mai come quest'anno, perché avremo qualcosa da commentare di vero e non di cose. Per cui arriva una notizia come quella e anche loro dicevano attenzione, perché Tampa adesso diventa una contender seria per il Super Bowl, perché ha una squadra, soprattutto un attacco, la difesa era già discreta l'anno scorso, e pur con i dubbi di un quarterback di 42 anni, un miglior tight end nella storia dell'NFL, ma reduce da un anno di stop, appunto, e compirà 31 anni. Tu sai perfettamente come il grande finale americano di questo film è il Super Bowl di Tampa con loro due insieme. Non so quanto sia realizzabile, anche perché Batman di anni ne ha 41-42, no? Tom Brady ad agosto, sì. Gronkowski è reduce da una stagione di stop. Prima abbiamo parlato di percorsi di fitness, eccetera. Lui si è dato al wrestling dopo aver chiuso con il football, evidentemente c'è stata, non so se c'è stato un tentativo di riattivarlo da parte dei Patriots, però è comunque un ex giocatore che torna dopo un anno di inattività e peraltro dopo diversi infortuni. Dopo tanti infortuni, dopo tante operazioni, schiena, braccia, ricordiamo, ginocchio, cioè veramente le ha avute tutte. Si è tenuto discretamente in forma, non in forma da football, ma io penso che non ci metterà così tanto tempo a ritornare in quella forma necessaria per giocare una partita NFL, ha davanti il tempo necessario per farlo. Non sarà un percorso semplice come normalmente lo sarebbe, perché ad esempio gli OTAs, che sono i primi allenamenti organized team activities, cioè organizzate dai club, e sono generalmente facoltative, quest'anno non ci sono nel periodo in cui dovrebbero essere a breve, perché è tutto fermo. Però io credo che, andando di pari passo tutti alla stessa marcia, perché quando inizia uno inizia l'altro, avrà tempo per tornare ad essere probabilmente per un ultimo urrà il Gronk di una volta. Lo utilizzeranno, io credo, anche moltissimo come bloccatore, cioè uomo di linea, perché è in quel ruolo, credo che non ce ne siano stati assolutamente migliori di lui. Poi ce lo ricordiamo per i touchdown, le ricezioni, ma a livello di bloccare per la linea d'attacco, in questo caso ancora per il Batman, Tom Brady, meglio di così non potrebbe chiedere il buon Tom. No, ma nello sport è il classico giocatore che con la sola presenza migliora quasi il rendimento dei compagni, dà tranquillità, facciamo, nel calcio si dice dà tranquillità al reparto, nel football non so quale sia il parallelo, però è un giocatore di quel tipo lì. Senti, ma invece, venendo a fatti di stretta cronaca e di stretta attualità, come vedi lo sviluppo dello sport negli Stati Uniti ad oggi? Molto molto complicato. C'era settimana scorsa su Sport Illustrated 10 giorni fa un pezzo tagliatissimo su tutte le difficoltà che ci potrebbero essere a riprendere le leghe professionistiche e le loro stagioni pur in un ambiente asettico, insomma isolandoli. L'NBA, si è parlato di Disney World, avrebbero tutti gli impianti per poterlo fare, ma la complicazione è che per poter mettere in sesto un'operazione del genere, al di là dei costi economici, perché poi chiaramente non giocando ci si perde talmente tanto che anche se dovessi pagare molto di più qualcuno per venire a tenere in piedi la baracca, probabilmente ne varrebbe la pena. Ma sono veramente complicati, al di là dell'aspetto strettamente dei controlli, dei tamponi, degli esami, quelli che ci possono essere affidabili. L'isolamento in sé per sé è complicatissimo, perché tutto quello che ci va dietro, non parliamo solo di giocatori, staff, allenatori, parliamo dei raccattapalle, di quelli che devono fare il catering, di quelli che devono servire pulire tutti gli ambienti. Tutte queste persone andrebbero tenute in isolamento per tot mesi, magari meno perché siamo addirittura d'arrivo, il baseball vorrebbe dire almeno 4 mesi e mezzo. È difficilmente fattibile finché non ci sarà un via libera. Io temo che non ripartirà nulla, la speranza almeno l'NFL a settembre. NFL a settembre, abbiamo notato il differente atteggiamento però da parte dell'establishment del governo americano nei confronti dello sport. Qui vengono visti quasi come degli intrusi fastidiosi, negli Stati Uniti invece lo sport ha una considerazione diversa e equiparata ovviamente ad altri settori di massima importanza produttiva, tanto che dicevamo nei giorni scorsi sono stati inseriti tra gli interlocutori del presidente nella mega commissione di ripresa. Assolutamente, ma oltretutto secondo me hanno un valore a livello economico di movimento dei soldi che spostano, equivale a grandissimi multinazionali, ma hanno un valore sociale non indifferente. Ma pensiamo a livello anche nostro individuale, poter pensare che fra un mese, anche se siamo costretti a rimanere molto più in casa di prima, magari potremo uscire un po' di più rispetto ad adesso, ma chiaramente non faremo la vita di prima, ma per la possibilità di dire oh che bello, mi alzo la mattina e dico guarda, stasera ho 2 partite da vedere. Eh sì. Cambia la vita, si cambierebbe la vita. Io credo che sia tanta la gente che la pensi così. Per cui io sono d'accordo che deve andare tutto di pari passo, che non ci devono essere canali preferenziali, però sino a un certo punto è chiaro che non devi scavalcare chi ne ha bisogno per salvare la vita degli altri, chiaro. Ma metterlo sullo stesso piano quantomeno per qualsiasi altra azienda che deve ripartire. Sono d'accordissimo con te, Massimo. Per chiudere, le immagini che ci arrivano da dagli altri pianeti sono appunto quelle di Ibrahimovic, che citavo prima, che si allena giocando a pallone normalmente in Svezia col club di sua, che è in parte di sua proprietà, cioè l'Hammarby, di Ronaldo che fa allenamento con mille proteste da tutte le parti da solo dentro a uno stadio, e di Tom Brady che viene cacciato dal parco della sua nuova città, no, Tampa Bay. Esatto, questa è veramente stata la perla della settimana, il povero Tom, peccato, colto in flagrante in mezzo a un parco chiuso, poi non multato come ha scritto qualcuno, ma semplicemente gli hanno detto: guarda, non lo, torni a casa da Giselle che è meglio. Sì, gli hanno detto: guarda, siamo casa, la tua nuova città è prontissima a consegnarti le chiavi d'oro, ma magari un altro giorno. Aspetta più un attimino ancora, per adesso le chiavi sono partite dalla porta di casa e resta dentro. Ma lui ha detto qualcosa? Non ci sono tante dichiarazioni riguardo, già uno abbastanza restio, diciamo a parlare. Sì, sì, comunque sì. Vorrei veramente avere un tasto e schiacciare fast forward e arrivare a settembre per mille motivi, ma anche per vedere la prima partita dei Bacani. Ah, non sei l'unico, mio caro. Grazie Massimo. Immagino, a presto. A voi, buona continuazione. Ciao Massimo Oriani, Gazzetta dello Sport, naturalmente. Bene, noi ci fermiamo qui dopo avervi letto la dichiarazione di Spadafora di pochi istanti fa. Dopo l'incontro con i vertici del calcio, due punti aperte virgolette, ringrazio tutti i partecipanti alla riunione. Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato Tecnico Scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti. Se c'è qualcosa da commentare lo faremo domani, mi sembra che sia più o meno il nulla o quasi in attesa di notizie più specifiche. Grazie a Claudia Schiattone, Anita Panizza in redazione, a Roberto Fresano in regia. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.